Tante smorfie non son di gusto mio. E che c'ho da fare io? Non mi dovresti trovar un'italiana o una gran moglia, già per una di quelle signorine che da martello a tanti ci svei. Io servirvi vorrei, ma i miei corsari e l'incostanza del mar. Se fra sei giorni non me la trovi e sedi a far lo scaletro, io ti faccio impalare. Non occorre altro.

pezzola sul tuo ma conviene dissimulo ma conviene dissimulo ma trattata dalla sole condannata alle Thank you.